you feeling now that you are so far from me on your side of a border? What is there? Can you hear my voice calling? Don't forget what I wrote to you, and you know in a little while I'll be there. No, no, no. Whoa. You're up in two. You and me. Ha. How's your life? Nel cercarti e pensarti e desiderarti quelle sere, e ora dopo ora ancora sei ti fisso. Sei così bella a scuola che non resisto. Così nei miei testi sgorgono attimi di storia, e poi mentre studio imparo da memoria. Questa è la nostra casa e la chiamo Europa. Impareremo insieme anche tutte le lingue, ma con la tua mano accanto che mi stringe, e nella distanza una strada mi vince. Ti dirò quello che vuoi, avrò accanto gli occhi tuoi, alzerò la voce che parlerà di noi. Europa 2, io e te, non c'è distanza.